Questa è una ricerca collettiva che è stata fatta insieme da varie realtà della società civile europee e quello che ci siamo posti come quesito è fino a che punto l'industria fossile riesce a influenzare e in alcuni casi proprio a penetrare gli stati, i governi e le istituzioni europee. Quello che abbiamo trovato è a dir poco allarmante perché prendendo in esame diciamo le sei principali compagnie del petrolio e del gas europee, tra cui anche Eni, abbiamo scoperto ben 71 casi di revolving door, ovvero di porte girevoli, che in sostanza si tratta di ex ufficiali governativi passati a lavorare per l'industria fossile o viceversa, quindi manager dell'industria fossile che poi assumono posizioni, incarichi istituzionali. 71 è un numero che deve far pensare perché di fatto attraverso queste porte girevoli si crea proprio una sorta di legame strettissimo tra l'industria e chi quell'industria dovrebbe regolarla. E questo è ancora più allarmante considerando che si tratta dell'industria più inquinante al mondo e la principale responsabile della crisi climatica. L'impatto naturalmente è molto chiaro, ovvero se esiste questa compenetrazione, allora il rischio è che i governi e le istituzioni possano rallentare l'azione climatica che è sempre più necessaria. Oltre a questi 71 casi di porte girevoli abbiamo anche trovato ben 568 incontri tra l'industria fossile e ufficiali della Commissione europea e questo dal 2015 al 2021, una media di più di un incontro a settimana, 1,5 per essere precisi. Durante questi incontri naturalmente ciò che si discute non è dato sapere al pubblico, ma possiamo immaginare quali siano le richieste e le pretese a volte dell'industria fossile, che sempre nello stesso arco temporale ha speso almeno 170 milioni di euro in attività di lobby. Attività di lobby che quasi sempre ha come obiettivo quello di rallentare o di ostacolare o di neutralizzare eventuali rischi per le società. E quali sono questi rischi? Beh, il primo ovviamente sono le politiche per il clima, perché queste implicherebbero un danno economico per chi invece fa profitti attraverso i combustibili fossili. E se zoomiamo un attimo sulla principale compagnia italiana, ovvero Eni, nel caso di Eni abbiamo trovato almeno 10 casi di porte girevoli, ma questo è un numero non rappresentativo del totale. Diciamo i principali in Italia sono anche già noti, forse il più celeberrimo è quello di Lapo Pistelli, che era l'ex vice ministro degli esteri, oggi vicepresidente di Eni. Oltre a Lapo Pistelli c'è il caso dei cosiddetti distacchi, ovvero manager di Eni che mentre rimangono a tutti gli effetti contrattualizzati da Eni vanno a lavorare presso il Ministero degli Affari Esteri. Ce ne sono stati tre negli ultimi anni, un caso è quello di Alfredo Tombolini che si occupava delle relazioni internazionali per Eni ed è stato poi distaccato presso la Direzione Generale per la Globalizzazione del Ministero degli Affari Esteri. E questo naturalmente è un problema perché il Ministero degli Affari Esteri è uno dei ministeri chiave della vita democratica di un paese che si occupa di energia, ma non solo, di migrazioni, di relazioni internazionali e il pensiero non può che andare ad esempio ai rapporti con l'Egitto, che è un paese con il quale Eni fa affari ingentissimi perché è lì che si trovano alcuni dei suoi giacimenti più grandi, ma è anche un paese che come sappiamo viola regolarmente i diritti umani e un paese che ad oggi ancora ostacola il percorso per la giustizia e verità per Giulio Regeni. Naturalmente noi non possiamo sapere in che modo questi distacchi influenzano le politiche diplomatiche italiane, ma di sicuro il fatto che ci siano manager di una società privata all'interno di un ministero pubblico pone delle domande. Visto che ci avviciniamo a COP26 e già lo stesso presidente incaricato dal governo britannico parla di difficoltà nel raggiungere un accordo, e più delle difficoltà che ci furono a Parigi, questa può essere una chiave di interpretazione, cioè le ingerenze, le porte girevoli dei fossili all'interno dei governi. Assolutamente sì, questo è un canale di influenza estremamente potente che si aggiunge anche a tutti gli altri. Fin quando non verranno istituiti dei veri e propri firewall, dei veri e propri muri che separano l'attività politica pubblica da quelle che sono gli interessi privati di queste società, naturalmente sarà molto difficile riuscire ad implementare delle politiche che realmente aggrediscano la radice del problema della crisi climatica. E la radice di quel problema è da almeno 70 anni l'industria fossile, e questa industria naturalmente nel corso di questi anni è riuscita a ottenere degli accessi privilegiati alle istituzioni, e fin quando questi non verranno eliminati del tutto ci ritroveremo a osservare ancora una volta politici che continuano a fare gli interessi non della collettività ma di queste multinazionali.